Quando si prende in esame la dottrina della Chiesa, si affronta un tema abbastanza evidente nelle scritture. La Bibbia ne parla spesso, usando delle metafore nelle quali essa compare come il corpo di Cristo, come la sposa di Cristo, come il popolo di Dio, il tempio di Dio, come un regno, una famiglia, un gregge o una vigna. Nonostante vi sia questa ben nutrita serie di immagini e di argomenti sulla Chiesa, nel variegato mondo religioso quale cattolicesimo e protestantesimo, vi sono opinioni diverse. Ma su di un punto le confessioni religiose sono d'accordo, e cioè che per far parte della Chiesa è necessario e indispensabile realizzare un'esperienza religiosa mediante la quale si diventa figli di Dio. Così, mentre per il cattolicesimo si diventa figli di Dio mediante il battesimo da neonati, per i protestanti si diventa figlio di Dio mediante un atto di fede personale in Cristo quale Salvatore e Signore. Ma vi è un altro punto di divergenza tra i credenti che non necessariamente si schiera da una parte religiosa, e cioè chi fa parte della Chiesa. Fanno parte della Chiesa tutti i credenti di ogni epoca, o solo alcuni. Chi ha una convinzione la conferma con una ben nutrita serie di affermazioni bibliche, perciò è molto difficile far cambiare idea a chi la pensa diversamente. Chi crede che la Chiesa di Cristo sia composta solo da un certo numero di credenti si rifà a ciò che Gesù ha detto a Pietro, e cioè che avrebbe edificato la sua Chiesa. Il verbo al futuro fa pensare che i credenti vissuti prima dell'incarnazione e resurrezione di Cristo non facessero parte della Chiesa. Chi invece sostiene che la Chiesa è composta da tutti i credenti di ogni epoca si appella al termine Chiesa, termine che si trova circa 100 volte nella versione dell'Antico Testamento della 70 e altrettanto nel Nuovo Testamento. È evidente che usando il termine Chiesa sia per il popolo di Israele, sia per i credenti del Nuovo Testamento, è facile fare di tutte le erbe un fascio. Così, i credenti difficilmente riescono ad avere un punto di incontro, poiché tutti adducano delle valide ragioni a sostegno delle loro opinioni. Perciò, quando non si trova un accordo, spesso è saggio considerare la problematica da un altro punto di vista. A tutti noi è capitato che esaminando un altro problema si trovi la risoluzione degli interrogativi passati rimasti insoluti. Per questo oggi cercheremo di capire chi appartiene alla Chiesa prendendo in esame lo Spirito Santo. Secondo la Scrittura, per far parte della Chiesa, e cioè del corpo di Cristo, occorre essere battezzati nello Spirito Santo, esperienza questa che ci fa diventare figli di Dio. L'Apostolo Paolo lo dice espressamente, punto, come infatti il corpo è uno ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito, 1 Corinzi 12-12-13. Dunque, il battesimo in Cristo, mediante lo Spirito di Dio, è l'atto attraverso il quale Dio ci fa membri del corpo di Cristo e conferisce al credente la sua posizione in Cristo. Questo battesimo è così importante che Paolo esclude nel modo più assoluto la possibilità di appartenere e piacere a Dio senza avere il suo Spirito. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne ma nello spirito. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Romani 8, 8-9. La dottrina del battesimo nello spirito è talmente importante che alcuni ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia, con conclusioni fuorvianti. Queste persone ritengono che per essere salvati occorra il battesimo dello Spirito Santo, ma la Scrittura si riferisce al battesimo nello spirito, indicando in tal modo non tanto chi produce il battesimo come se ci fossero tanti battezzatori, ma piuttosto il luogo nel quale avviene il battesimo, cioè l'immersione, poiché è da ricordare che il battesimo è un'immersione. Stabilito che fanno parte della Chiesa solo coloro che sono stati battezzati nello Spirito di Dio, quello che sfugge alla maggioranza dei credenti è che Questa esperienza non era realizzata dalla fondazione del mondo, ma era stata profetizzata dagli uomini di Dio millenni di anni prima. E il credente, anche se non lo sa, è partecipe di una delle promesse più grandi che il Dio Trino potesse fare. Questa promessa, forse dimenticata o ignorata, percorre tutta la Bibbia e viene messa in evidenza nel Nuovo Testamento tramite il ministero di Giovanni il Battista e Gesù, viene confermata dagli evangelisti e riconfermata da Paolo nelle sue lettere. Il profeta che parla in modo esplicito di questo spirito è Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Ezechiele 36, 26-27. Lo spirito di Dio è uno solo. Eppure Ezechiele parla di uno spirito nuovo. Cosa voleva intendere? Al tempo di Gesù, tutti si chiedevano se Giovanni fosse il profeta atteso, ma egli rispose a tutti: «Lo vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco». Luca 3,16. Nella narrazione dei fatti posteriori alla resurrezione di Gesù, Luca ha scritto che egli si fece vedere dai suoi discepoli, ai quali fra l'altro disse: «Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto». Luca 19:49. Le stesse cose Gesù le dichiarò prima di salire in cielo. Atti 1, 4-5. Quando Pietro diede il primo messaggio, nel suo discorso nominò la promessa del Padre: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà». Atti 2, 38-39. Infine, nelle sue lettere, l'Apostolo Paolo nomina la ricezione dello Spirito Santo come il risultato della promessa di Dio. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Efesini 1, 12-13. E ancora, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque è appeso al legno», meno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Galati 3,13-14. Dunque, lo Spirito Santo che scese nel giorno della Pentecoste sui discepoli era lo Spirito profetizzato da millenni, e gli apostoli ne erano coscienti. Gli ebrei, essendo il popolo di Dio, credevano di essere i soli eredi di questa promessa. In effetti, tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro da Cornelio rimasero stupiti del fatto che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili. Atti 10:15. Essi avevano dimenticato ciò che l'Eterno aveva detto per bocca di Isaia: «Io sono stato ricercato da quelli che prima non chiedevano di me. Sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano. Ho detto: eccomi, eccomi, a una nazione che non portava il mio nome». Isaia 65:1. Dunque era arrivato il tempo in cui lo Spirito Santo sarebbe stato sparso su tutti, ebrei e non ebrei. Alcuni faranno notare che lo Spirito Santo era dato anche prima dell'incarnazione di Cristo. E questo è vero. Ma la novità o la promessa di Dio non constava tanto nel ricevere lo Spirito Santo, quanto nel fatto che lo Spirito Santo avesse il compito di far partecipe della Chiesa tutti coloro che lo avrebbero ricevuto. Questa verità viene implicitamente affermata da una piccola nota dell'Evangelista Giovanni. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva». Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato, Giovanni 7, 37-39. Partendo dal dato di fatto che anche i credenti dell'Antico Testamento potevano essere ripieni, guidati o sospinti dallo Spirito Santo, 1 Pietro 1,12, 2 Pietro 1,21, e siccome lo Spirito Santo promesso era lo stesso, dobbiamo concludere che sia i profeti, sia Giovanni il Battista e lo stesso Gesù parlassero di un'ulteriore funzione che questo Spirito avrebbe compiuto. Il compito che lo Spirito aveva avuto fino al giorno della Pentecoste era stato quello di guidare, di fortificare, di rivelare, mentre, dalla Pentecoste in poi, lo Spirito battezza i credenti facendoli partecipi del corpo di Cristo. Questo diventa possibile perché Gesù è stato glorificato. Inoltre, mentre lo Spirito Santo prima era con i credenti, ora è in loro, Giovanni 14 e 17. Questo è lo Spirito annunciato dai profeti. Chi fa parte allora della Chiesa Santa, apostolica, cattolica, cioè universale, questo paecomma? Dalla risposta che diamo a questo interrogativo dipende gran parte la comprensione delle Scritture, la giusta relazione con il prossimo e con chi professa una fede diversa. Secondo la parola di Dio non vi è dubbio che appartengono alla Chiesa tutti coloro che sono nati di nuovo nel periodo che intercorre tra le Pentecoste fino al ritorno di Cristo. Il giorno della Pentecoste lo Spirito Santo inaugurò una nuova era, inaugurò il periodo della Chiesa dei primogeniti, Ebrei mezzogiorno 23, coloro che Dio aveva già predestinato avanti la fondazione del creato, non a essere salvati ma a diventare la sposa di Cristo. Alcuni si interrogano sulla posizione che avranno in cielo i credenti vissuti prima della Pentecoste e dopo il rapimento della Chiesa. Una cosa è certa. Essi saranno salvati. Come per il regno di Cristo, non tutti i credenti regneranno. Così non tutti i salvati faranno parte della Chiesa o della sposa di Cristo. Io non conosco tutti i piani di Dio, ma so che Egli non finisce di stupirmi. Dicembre 2005. Ellero.